Van Loon. Dialogando di storia, qualcosa ne verrà fuori. Ciao a tutte e tutti da Debs e Priscilla. Che cosa ti hanno fatto? Di tutto. Ha risposto così Fiorella alla mamma, rientrando a casa. Fiorella, nell'ottobre del 77, ha 17 anni ed è una lavoratrice in nero. Le avevano detto di recarsi in una villetta a Nettuno per una proposta di lavoro allettante, quella di diventare segretaria di una nuova ditta. 70.000 lire il compenso. I dettagli li avrebbe appresi nella villetta. Fiorella, però, non trova nessuna nuova occupazione, ma quattro uomini che la violentano per un intero pomeriggio. Noi vogliamo raccontare questa storia perché parla di coraggio, di ribellione e di solidarietà. Fiorella ha il coraggio di denunciare. Questo ha contribuito a produrre un grosso cambiamento, e non solo per la sua vicenda personale. Considerare lo stupro un reato contro la donna è una vittoria del movimento femminista, che negli anni 70 ha messo in discussione ogni aspetto del quotidiano impostato sulle relazioni di genere. Nel movimento si parla di tutto: aborto, famiglia, lavoro, sesso e anche di violenza. Violenza degli uomini alle donne. Non sei sola, dicono le femministe. Infatti, le molestie non devono essere viste come un evento isolato, privato, casuale, personale. C'è un sistema che legittima la sopraffazione maschile sulle donne, che deve essere smascherato, e le donne devono sentirsi sicure. In via Governo Vecchio a Roma, luogo storico del femminismo romano, si tiene un convegno internazionale per parlare di molestie, sessualità, stupri, maltrattamenti. Ci sono donne da ogni parte del mondo e tra le tante cose si riflette su come sempre nei processi per stupro ad un certo punto la donna da vittima diventa imputata, accusata, colpevole. Qual è il meccanismo che porta a dire se l'è cercata o ma l'avrà sicuramente provocato o il suo stile di vita giustifica la violenza? Nel 1979 la denuncia di Fiorella contro i suoi stupratori arriva al processo. Sei registe bussano alla RAI. Alcune di queste appartengono al primo collettivo femminista di cinema in Italia. Vogliono parlare di stupro con gli occhi delle donne. Vogliono riprendere e documentare le fasi del processo. Le attività del movimento delle donne sulla questione della violenza sono instancabili, ma c'è bisogno di parlare anche a chi non fa parte del movimento. Sentiamo l'esigenza di raggiungere un pubblico più vasto di quello dei circuiti alternativi e militanti, che si rivolgono in genere a spettatrici già coscienti della loro condizione. Quello che ci interessa è portare la nostra informazione alle donne ancora chiuse nelle case. Il 29 aprile del 1979, 3 milioni di italiani dal proprio salotto vedono il processo agli stupratori di Fiorella. Entra nelle case degli italiani il documentario Processo per stupro. Questo io vi chiedo, giustizia. Noi non chiediamo le condanne, non ci interessano, ma rendete giustizia a Fiorella e attraverso la vostra sentenza voi renderete giustizia alle donne, a tutte le donne, anche a quelle che vi sono, e prima di tutto a quelle che vi sono più vicine, anche a quelle povere donne che per disgrazia loro sono vicine agli imputati. È la prima volta che le telecamere riprendono cosa succede in un'aula di tribunale. Le parole e le immagini in presa diretta, filmate in bianco e nero, mostrano l'orrore e lo squallore del processo. Contemporaneamente, svelano pubblicamente i modi di pensare, i comportamenti, gli stereotipi del potere maschile. Il processo si apre con il tentativo dell'avvocato degli stupratori di risarcire il danno con una mazzetta da 2 milioni di vecchie lire buttata sul banco del tribunale. L'avvocato della parte lesa, Tina Lagostena Bassi, respinge la mazzetta e si limita a chiedere una lira simbolica di risarcimento. Durante il processo, gli avvocati degli imputati cercano di screditare la vittima e i violentatori insistono sui comportamenti sessuali della ragazza. Si susseguono violenze verbali contro Fiorella, viene considerata una prostituta, si gioca con i doppi sensi e si ironizza. Gli amici degli stupratori vengono chiamati a testimoniare e dichiarano che la ragazza, malgrado fosse fidanzata, si intratteneva facilmente con altri uomini al bar. Signori, una violenza carnale con fellazio può essere interrotta con un morsetto. Passa immediatamente la voglia a chiunque di continuare. E l'atto quindi mal si coniuga con la ipotesi della violenza, anzi è incompatibile con l'ipotesi della violenza. Tutti e quattro avrebbero incautamente abbandonato nella bocca della loro vittima il membro, parte che per antonomasia viene definita delicata, dell'uomo. E su cui, mi si consente, il coito orale si compie con una prestazione che è tecnicamente qualificata e che esprime una serie di atti voluti, perché non c'è attività tecnica se non c'è volontà. Ah sì, mi posso abbandonare, ma io lì non mi abbandono, sono io attiva, sono io che posseggo. Ecco, il possesso è stato esercitato dalla ragazza sui maschi, dalla femmina sui maschi. Una donna di buoni costumi non può essere violentata. Se c'è stata una violenza, questa deve evidentemente essere stata provocata da un atteggiamento della donna. Se non ci sono dei segni evidenti, allora la vittima deve essere consenziente. E allora, signor Presidente, che cosa abbiamo voluto? Cosa avete voluto? La parità di diritti? Avete cominciato a scimmiottare l'uomo? Voi portavate la veste, perché avete voluto mettere i pantaloni? Avete cominciato con il dire, avevamo parità di diritto. Avete cominciato con il dire, perché io alle 9 di sera devo stare a casa? E mentre mio marito, il mio fidanzato, il mio cugino, mio fratello, mio nonno, il mio bisnonno vanno in giro. Vi siete messi voi in questa situazione. Non l'abbiamo chiesto noi questo. E allora purtroppo ognuno raccoglie i frutti che ha seminato. Se questa ragazza si fosse stata a casa, l'avessero tenuta presso il caminetto, non si sarebbe verificato niente. Eh no, signore, è una realtà questa. Il documentario riceve tanti premi e riconoscimenti ed ha un impatto fortissimo sui media. Sulla prima pagina del Corriere della Sera si legge: abbiamo toccato con mano, non volevamo credere ai nostri occhi e alle nostre orecchie quando uno degli imputati, masticando chewing gum, ha detto: le avevamo promesso 50.000 lire, ma poi non gliele abbiamo date, non siamo rimasti soddisfatti. La messa in onda del documentario è un tassello importantissimo che scuote l'opinione pubblica, già sensibile da alcuni anni verso le tematiche e le istanze del movimento femminista. Nel 1981 viene abolito l'articolo che riguarda il matrimonio riparatorio, ma è solo con la legge numero 66 del 15 febbraio 96, norme contro la violenza sessuale, che si afferma il principio per cui lo stupro è un crimine contro la persona e non contro la morale pubblica. Il movimento delle donne ha indubbiamente scosso la società italiana, ma le sue battaglie sono ancora in atto. C'è la legge, ma anche una forte cultura misogina. Ci sono i centri antiviolenza, ma sottovalutati e senza fondi sufficienti. Le istituzioni si sporcano le mani parlando di femminicidi, ma rispondono con soluzioni securitarie e razziste. Sottintesa a queste politiche è l'immagine della donna come soggetto passivo e proprietà da difendere. Quello che abbiamo raccontato, infatti, non sono battute di un periodo lontano. Torna alla mente anche la vergognosa sentenza del 2015 per lo stupro di gruppo avvenuto a Fortezza del Basso. Anche in questo caso i giudici dubitano della credibilità della ragazza basandosi sul suo modo di vivere e sulle sue abitudini sessuali. Oppure il caso più recente di Ashley Olsen, trovata morta in casa a Firenze a gennaio del 2016. Non solo i commenti razzisti e sessisti sui social network non hanno freni, ma anche le testate giornalistiche nazionali hanno alimentato un gioco malato dove nel saccheggiare informazioni sulla vita privata della vittima si mettono insieme dei pezzi che alla fine porterebbero a giustificare quella fine. La misoginia accompagna tuttora il discorso sulla violenza che le donne subiscono, ma la donna è la vittima della violenza, non la causa. Ammazzo il tempo bevendo caffè nero bollente, in questo nido scaldato già dal sole paziente, ma tu che smetti alle tre, poi torni a casa da me, tu che non senti più niente, mi avveleni la mente. Un filo azzurro di luce scappa dalle serrande e cerco in vano qualcosa da inventare in mutande. Un'automobile passa e una mosca vola bassa, mi ronza, gira, gira, ma sbaglio la mira. Vorrei cercare qualche cosa da fare fuori e camminare senza orgoglio, darsi a rubacuori, ma io come Giuda so vendermi nuda. La strada conosco, a tirarti nel bosco, a tirarti nel bosco, a tirarti. Voci di strada all'orecchio, tutto è poco eccitante. Perché io non ho bisogno.